figli del popolo, che siete? Chiacchiera? Chi è che chiacchiera? Avanti, vedi, saluti. Mannaggia la maglietta. Comunque, come radio non sta dicendo tanto buono, sono bracco. No, diciamo che non sei molto comprensibile, ma io magari cerco un po' di orecchie, però non è chiara dalla modulazione. Riesci a vedere che non è che riesce a scimbermi? Fa tutto a fruscici, tutto cupo, tutto rauco, tutto mascia male. No, ho capito niente. No, sei tutto a fischi, tutto cupo. Abbassa. Comprensibile, ma non è che va meglio. Minchia, Fabio, non sono riuscito mai a sentirti bene, da quando sei entrato, boh, tutta frusci, sì. No, non ho disturbato, noi siamo in quel Rix. Quando la gente entra noi rispondiamo. E anch'io sono più Rix, sto finendo un quadro. Sai che qua c'è sempre il guardiano. Questo canale l'ho inventato io come Pippo Baudo. E io quindi devo essere sempre vigile. Non si sa mai. È vero, no, io stavo finendo un quadro, me la rompo le balle, non ci riesco, non ho più ispirazione, mia moglie, ragazzi, non vuole che mi faccia modelle, e quindi ho detto un quadro in mente dalle balle, non riesco a uscirne, ce l'ho più di un mese sotto le mani, ma non ci rimetto. Adesso sono entrati in frequenza un attimo, ma poi ritorno subito a trabaccare, diciamo. Bisogna fare. Ma io mi stavo mettendo a posto tutti i microfoni, ce n'è un mare, ho provati stamattina, sono tutti perfettamente funzionanti, li ho puliti e rimessi dentro l'armadio. Adesso sono qua, stavo guardando qualcosa al computer se trovavo qualche altro radio vintage, ma non c'è niente che mi piace. Sì Fabio, devi mettere un po' a posto lì, perché veramente ci ascoltare a te è un'impresa. Sì, meglio, chiaramente meglio, decisamente meglio. L'altro è tutto a frusci, tutto incasinato. Sono quei mini radio, mini baracchini così chiamati. Vabbè, no, io non ci vado d'accordo con quella roba. Poi io se non c'ho roba consistente come questa, già c'ho i vintage che però sono base, li uso, ma perché sono base baracchini io non ci vado molto d'accordo. Attaccato a te. dove sei, prima o dopo l'edicola? Non è che siete nello stesso palazzo. Ma siete attaccati, sarete 100 metri, 200 metri una distanza dall'altra, solo solo per non ve l'altra di conto, preoccupare, c'è la prima e la seconda, io lo so, lui è prima della seconda mi pare, così è Giovanni, prima della seconda si sì, all'incrocio, con via, come si chiama quella via, via Bardini. Comunque lì all'incrocio via Bardini lui dai. È attaccato a te. No, qua arriva appena più forte di te, ma leggermente. Se poi lo usi poco, ogni tanto entri, però quando entri io sono del parere che bisogna entrare bene con l'impianto apposta. Non so. Ma noi due ci siamo mai conosciuti, no? Col cane no, il mio lo vedo da qua è addormentato, ma lui prima ormai le 7, 7 e mezzo, come un quarto non esce, perché non vuole uscire, capito? E come la mattina, prima delle 9 e mezza lui non esce mai, 9 e un quarto, stamattina 9 e 10, strano, strano. E vabbè, lasciamo riposare, poi vediamo, tanto non ce n'è problema, anche se piove già, vado sotto il porticato nostro e via. Si sta mettendo un po' di venticello e forse domani magari cambia il tempo, non lo so. Ma non c'è le lumache, sono uscite vicino a casa, c'era tutta la gente raccogliendo lumache. Sì, anche qua nel giardino, ma io non li biglio vicino ai cani, guarda, non mi interessa assolutamente, ancora non ho mangiato niente, ma al limite adesso penso che riapro il mercatino almeno per l'igiene alimentare, per le cose, quindi se c'è quella signora me li prendo da quello, quel signore di Ossi, me li prendo da lui, a Gian Maria, e sono buone. Ma cucui? No, lumache, ragazzi, cucui, lumache normali. Anche a me piacciono solo quelle, a me non ci sono altre lumache che mi piacciono, c'è solo le lumache grosse fatte con sughetto piccante, buba. Buonasera anche all'amico Fabrizio, mi pare che sia, va? No, è Fabio. È importante. Cosa, già? Importante. No, ho parlato Fabio, cosa hai detto Fabio? Non lo senti a Fabio, già? No, se gli mettono una portante quando va a parlare non lo sento. Niente, è importante, se arriva a Santiago 9-5 Fabio è importante, io non lo sento, allora è vicino a te, è importante, l'ha attaccata a casa tua. La portante qua è 9-10. Sì, allora è vicino a casa tua, perché se non copre qua non la sento neanche la portante. Non lo so. Vabbè, non lo avete dicchio, l'ho detto io. Il coronavirus invece di ammazzare le persone l'ha reso matte. Sì, a te ti sento, beh, a Fabio che non sento, capito? Fabio quando sta per parlare mi metto a portare. Non lo so, ma è da giorni così Fabio, non ce l'ha con nessuno questo, ce l'ha con se stesso, ma deve essere vicino a casa di Gianni, giù in quella zona, perché qua non arriva niente. Non ti copre qua per la portante, capito? Vai alla grande. È già un periodo, no, non sono uscite lumache, sono uscite un po' di macchini, capito? Che la gente ha resumato le radio per rompere le balle e basta, stavamo bene, avevamo 4 gatti, quindi è poco in mondezza. Proprio manco pensando ci sto, assolutamente, portantine così io manco ne metterei, perché se devo andare a disturbare vado a disturbare veramente, non pure un portante Santiago 3. Vabbè, a Gianni arriva 9 più 10, ma sicuramente è a casa sua, è lì vicino a lui, perché qua io manco la sento. No, non c'è più adesso. Adesso non c'è più. Sì, ti sento, basso basso, ma ti sento. E non ce n'è più di portante adesso. Adesso ti sento. E io decidi di mettere l'antenna sul tetto. Portantista, mi fai attaccare il lineare? Questa era Santiago 7, un altro teclato. E te l'ho detto Fabio, hai ragione che ci sono questi cipitoga, perché li chiamo cipitoga? 5, Santiago 7, la portata deve essere sostanziosa, altrimenti cosa la metti a fare, a perdere tempo? Io ti sento, non ti fa niente, ma lo esordina a futti. Che ha problemi a Gianni, ma ti ripeto, sicuramente nella zona sua, perché qua io manco la ricevo. E basta fare come si faceva prima, fare le ronde e andare a ficcarlo. E dopo si rabbida quando tira razzi. Sì, già lo so, sì, ce l'abbiamo fatto di nottate, ma no, erano altri tempi. Adesso sono finiti i giochi, Fabio, ma la futti buonuta, ma ti pare che devo entrare in radio per stare a bicchiare con la gente, non la si ne futti. Vivi e lascia vivere, vuoi disturbare? Disturba, io spengo la radio e vado a fare altro, non mi interessa più, ui. Ho sprecato troppo tempo io con la gente, che poi è risultata, quello che è risultato lasciamo perdere. Chiaro Gianni, così è. Vabbè dai, adesso io l'ascolto, vediamo un po' se non ne mette, vi ascolto io, dai. Se non l'ascolto io, così non rompe più questo testicolo. Vabbè, se uno cazzo si deve privare di parlare in radio, che è un macco di gabbena, quello è vicino a casa tua già, dovete scoprirlo voi, dovete cercare di capire da che posizione arriva. Perché hai visto che arriva anche a sorso, quindi è lì da voi, qua io manco la sento. E Gianni è giù nella bassa valle lì, dai, dove nella zona ex guardia di finanza, per farti capire, dai. Realizzarla ci metto poco, non è un problema, è che mi gira le balle, cioè non posso io privarmi delle direttive per usarle in 27, cioè è una cosa pazzesca, capito? Perché basta che commuto, sacco, devo fare dei cambiamenti, mi rompo le scatole, cioè io sono organizzato per le mie cose, ma ti pare che sia fatta i taglienti, capito? Perché io basta, mi metto un commutatore, uso in ricezione, in trasmissione la Mantova e poi commuto. Con la direttiva a tre elementi di 10 metri, la lascio puntata lì verso Gianni e scopro tranquillamente, guarda come la muovo, io scopro tranquillamente a che zona sta trasmettendo lui. Sono organizzato per andare presso le portate, ma il cazzo se ne fotte. E lì nella zona bassa, Luca, è lì, perché a me, a Fabio, non le fa niente. Capito? E invece a Gianni gli arriva 9 più 10, quindi dovete essere voi a scoprire chi è questo imbecille, Luca. Quando ti arrivate, Luca? 9 qua. Ma è 9 e 10, quindi è sempre più vicino a casa. Sì, ma io che non scopro, poi voglio vedere che scusa si inventa. Andiamo volante, non era mai che andate a casa. Vabbè, dove... voi lasciatelo tranquillo e sereno, che se lui continua a disturbare io mi organizzo con la direttiva dei 10 metri e l'appunto proprio verso di te, Gianni. Nel momento in cui c'è la portante io cerco di stabilizzare bene l'antenna e tirarmi sul segnale, e se l'antenna mi dice che è quella la posizione, è lui e basta, ma te lo dico io, Lovè, te lo dico io, è lì vicino a te, in mezzo, vabbè, visto dove sei tu, verso giù, verso i lati, è lì in mezzo, capito? Perché è impossibile, qua arriva Santiago 5, 6 massimo, si deve solo vergognare, ma è una cosa molto importante, la gara buona è importante. Ho notato veramente quando c'è gente bassa, tipo KP2, tipo, cosa ti posso dire, quando Alfa 21 arrivava più basso, e la metteva sempre queste persone che arrivavano basse, capito? Perché i limiti suoi sono quelli, ha visto, non c'è manco i canali alfa, ora ho un 40 canali, se non vanno 23 canali, e tra l'altro ti posso assicurare che è anche una persona grande, non è un ragazzino, è una persona grande, FTD, ed è lì vicino a te, dovete essere voi a scoprire questa cosa, perché ti ripeto, qua non fa niente a nessuno, mi proprio, manco a Eugenio Coppa, che è il segnale più basso che ho, che è Santiago 9, Franco 9,5, da Sosso, figurati, non copre nessuno, qua a casa mia non disturba nessuno, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di mondezza, questo è uno che è abituato a rompere le palle, e buh, e ti ripeto, ribadisco che non ci vuole niente a trovarlo, non ci vuole assolutamente niente, come ti ha giù a pizzicare Durastro, quello più forte, no? Che lui è convinto di essere molto furbo, quello io so già nome, cognome e tutto, ma non lo dico perché per il momento è in stand by, se lui rifà una cosa del genere io dico chi è, perché l'antenna a quello mi ha dato e non c'è niente a fare, no? Quando io ruoto l'antenna sud e mi giro verso l'Ulvi non c'è niente da fare, carta canta. Cazzo Vanni, ma mica si rompi il guglione, mi ha tenuto boccio di, ma mi hai sentito fare nomi? Mi hai sentito fare nomi? Io ho detto solo, sto parlando solo di posizione, che l'antenna canta, quando io la giro e il segnale mi aumenta, vuol dire che quella è la posizione, io nomi non le sto facendo. Rilassati. Che ha fatto bene a fare nome, non si sa mai, ma era uno che prende qui quella zona. Buonasera lui. Come fa di nome qua? Ma perché li devi lasciar fare? Ma perché Gianni si deve privare di ascoltare un segnale basso quando c'è sto cagacazzo già da settimane che continua imperterrito a mettere la portante a segnali bassi? Ma perché? Non capisco. Io non capisco perché ci debba essere questa gente. Non capisco. Non è un problema mio, ti sto dicendo. Io mi metto nei panni di Gianni, che ogni volta che c'è un segnale basso questo imbecille mette la portante. A me non mi disturba, perché non fa assolutamente niente a casa mia. Poi io sto parlando per Gianni, che è lui che deve controllare e vedere lì, perché in quella zona sua, perché gli arriva 9 più 10, a me mi arriva Santiago 5, Luca 9, che è più su, quindi... Vedete Boisi, vai Gianni, vai. Ma so qui io non esco a posto, deve controllare, non io. Allora facciamo una richiesta tutti assieme, diamo la zona, io non ne ho problemi, nel modo più assoluto. ci mettiamo tutti d'accordo, quelli del canale 10, facciamo una richiesta ben specifica di zona, quindi zona latte dolce e buddi buddi, ok, e zona alta, quindi dal chilometro a salire verso su, verso via Grazia Deledda. Poi vedranno loro che cosa fare, perché è impossibile, cioè uno si deve privare di parlare con le persone che arrivano a basso, perché questo rompicoglioni continua imperterrito a mettere la portante. Ma dimmi tu se può essere una cosa del genere. Chi è? Prima aspetta la prima, perché sono questia, nessuno può votare e votare sulla sua macchina e lui fare il carro, anche se non si un questo è un solo. E più perché poi non c'è cosa succede, ieri invece ha fatto il controllo, ma non aveva facciamo. Poi ha lasciato per lei, prega, per uno che non ha. Non si può fare niente. Non è proprio vero che sia così, il baracchino non si usa per disturbare gli altri, ma si usa per discutere, per parlare, per fare queste cose. E poi ognuno la vede a modo suo. Guarda, ti dico pure di più. Sentire, capito? E tu già c'è il furgone con l'antenna, gira gira, lo zichemo. Ma questa è la portante già. E io. Santiago Sci arriva qua, Santiago Sci. Cioè, guarda dove sono io, Santiago Sci, quindi è lì, è da te. Cazzo, da 9 più 10 a Santiago Sci, ce n'è mi. No, io non manco l'assetto. Cosa? Manco l'assetto, Claudio. Figurati, non arrivi manco a Sciuscio. È lì già, è lì vicino a te, vicino a voi. Magari qualcuno con qualche portatile, qualcosa, perché antenne in quella zona non è che se ne vedano molto. Conosciamo le antenne che conosciamo nella bassa valle. E qualche stupido deficiente già. Se non era amico d'Antonio. Oh, ma non è la produzione del dopo. Ah, Sassari e mezzo lì, o è nella Budi Budi, o è lì alla fine del latte dolce, non lo so, Vanni, qua arriva Santiago Sei. Vedi, la macchina anche vuole, con la macchina metti per morire, comunque, fate un giro, metti in alto quante le macchine, e vedi dove arriva la più cosa segnata, che è tutto funziona. E poi magari una volta che sai dove lo vedi, allora fai uno di un uomo e te la punti, ma anche se non si ne fare, beh, lui mi fa con le coraggini, guarda, e quindi come tra le luci, tutto per tutti, perché anche le gli al collo, ma comunque è sempre un discorso che non ha motivo di esistere, cioè, ci arriva sempre a, purtroppo esiste, questa gente è boh. Ehi, ma io continuo a ribadire che il coronavirus dovevi ammazzare niente, invece l'ha reso matta. Perché sino a due mesi fa, a un mese fa, noi eravamo qua nel canale 10 facendoci fatti nostri, facendo chiacchiere, divertendoci, quelle 4-5 persone, non ci ha mai rotto le palle nessuno, adesso è entrata troppa mondezza, che hai capito sì o no, è entrata mondezza. Sì, però io ti sto ripetendo una cosa, a nessuno riesca che io prendo un baracchino, pago i 15 euro all'anno, faccio, e mi gioco da solo, hai capito cosa vuol dire? Mi gioco da solo, a fianco, sopra, cioè è un film, un gioco è una frequenza, la dragona, e lo sai, qui, quando è libera, non è venuta di qua. No, vabbè, che la legge sia a favore di questi deficienti, io non lo capisco, vabbè, comunque, dai. io non voglio più entrare in questo discorso, non me ne ha fatti nulla Gianni, se non senti i segnali bassi io rimango in quel X, vuol dire quando si può parlare si parla, vai, ciao a tutti. Ma è così, Claudio, è così. Ma sai cosa costa? Un'uscita con la macchina, ma se non è uno esce per becchiare un efficiente e tutto se la botta. Mai l'hai sentito quando c'era quell'amico nostro lì, e io ho sotto un attimo di volta per altre cose. Ma sai, lascia perdere, mi troppo ci dico, anzi, lascia che ti salvaggi un lascione, non muda, perché se conosci, fai frasi, hai capito? Becca la te a tutti, a me, a quello, là, non fanno le funzioni, hai capito? Quindi io poi devo portare i numeri, quindi non è che tu non ci guarda un cibo, io devo, ma sai, purtroppo è così, sai, questo è un modo pieno di una tentativa, da guarda. E allora lasciamoli fare gli stupidi, io non sono stupido, me ne sto per i fatti miei in silenzio, là. Ciao, ciao a tutti, quando c'è un po' di silenzio, di tranquillità vuol dire ci sentiamo, vai, ciao ciao. Allora Gianni, cosa ti ha combinato? Cosa gli è stata? Ti sta con te. Dai. Vabbè, no, poi fatto la quarantena, vedrai che fai anche questo. Queste persone che tu sono qui, dico perché non sanno cosa farti annoiata. Basso, basso, sei chi sei? Ah, ok. Poi aveva la batteria scarica. Beh, ma sei basso comunque, lo sei forte. Breck? Ci sta, avanti. Ma ah, sono Bracco, c'è cioè Giovanni, ascolta, no? Io sono questi greco ascolto. Volevo dire, c'è Fabio. Non prova a chiamarlo, Fabio, ci sei. Porca mia, poco fa c'era, va. Devo dire roba, ma è solo che mi ho impegnato con le mani e non potevo modulare. Ma non c'è più nessuno qua. Fabio, ci sei? Ma qui sei Gianni. Cosa? Ho detto se ci sei. Sì, ci sono, ci sono. Comunque è nuova la radio, dai, nuova nuova. Non me ne manda manco a vedere, ragazzi. Aspetta. Io vabbè dai, hai fatto bene a ordinarmela. Se ti devo dare te li do subito, non c'è problema. Ho capito. Onesto, hai fatto bene a ordinarmela. Mi dici quanto ti devo dare e ti do i soldi. C'è la mia. Sto scherzo. Guarda che ti ho mandato la foto. Fabio, ci sei? Fabio? No, dove è Fabio? Vabbè, va. Andiamo in questi in chiesa ascolto. Già è bella, sì. A me piace. Non piace, non piace il giubbaetto. È bella, ti stai dicendo, è nuova nuova. Speriamo che funzioni bene. No, te l'ho provato. L'unico problema è che ha un altro tipo di microfono. Comunque dice che è uguale. Cioè, il microfono da Jackson. E perché questa storia? Perché lui ha fatto uno scambio con uno, però non è stata mai aperta. Questa qua è un OM, capito? OM è fare gli scambi. Ma non è questo qua proprio l'ultimo modello, vero? L'ultimo modello c'ha il display azzurro. Ma non so che modello sia. Poi bisogna fare anche la modifica, capito? Il ponticello per i canali. Vabbè, se lo sai fare, non c'è problema. Se no lo dici a chi lo sa fare. Bisogna... Vabbè, c'è un coso da spostare, media, non è che mi sia un diploma, non so dove sia, comunque. Come quelli che ci sono negli hard disk, mi. Bisogna spostare il jumper, avanti, Blecco. Mi ascoltate, buonasera. Chi è? Tonino. Chi è, mi ascoltate? Tonino Kawasaki. Avanti, Tonino. Ascolti lui. Sì, vai. La radio. Cosa? È la radio, ma non mi ascolti. È basso, sì. So quanto? E la radio è basso, 2 di radio, 2.5. Ah, ok, da. Peccio, aumentato? No. Dal microfono, magari. E mi ascolti, Gianni? Beh, non c'è più nessuno. Attenzione, Tonino Kawasaki, cambio. Già, io ti ascolto, non so perché non mi ascolti tu. Ti ascolto, ma stavo cambiando apparecchio, non potevo risponderti. Io non ho il coso, il commutatore, quindi devo staccare l'antenna. Attenzione, Tonino Kawasaki, se ascolti doppio rum, cambio. la radiezza di Torino. Come esce Torino? Io ho un presentimento che la mia esperienza mi dice che qualcuno mi inganna. Claudio, mi ascolti? Sì, sì, ti ascolto. Claudio. Come? Mi ascolti, questa radio va bene? Sì, diciamo di sì e no. Lì. Foto, guarda questa. Aspetta. Sì, Santiago Nuovo, la radio è bassa, ti posso dare 3. Vabbè, questo è l'omologato, va. Tu metti l'omologcane. Ma sai quanto è bellina questa radio? C'ha tutte le frequenze per la Germania, per tutto, va. Sì, sì, sì, Massimiliano. Va bene, no, io non va bene. Ma abituato a intenditi una bomba, mi sei... devo alzare il volume, ma intenditi. Acquisto, Massimiliano. Che cosa c'ha? Acquisto, che radio è? Questo è un Lafayette Zeus. No, non è un nuovo acquisto. Ce l'avevo chiuso dentro la scatola e l'ho trovato poco fa. Nuovo l'uovo. Ogni tanto la c'ha più lunga, la caccia al tesoro. Ma perché c'è un break? Avanti break. Ciao a tutti, Alfa 21 da questa parte. Stai innescando. Devi abbassare leggermente qualcosa. E cosa abbassi? Non so cosa abbassi. Che cosa stai usando? Il più 5? No, l'MC60. Cazzo, di nuovo innescando sti amici. Ma non è che hai toccato il Mickey Gain, pulendo quella radio, toccando? Negativo, il Mickey Gain ce l'ho a 3,5, 3. 3, sì, a 3. E l'hai toccato, devi andare a 2,5, non a 3, Riccardì. Te l'ho detto, non devi toccare niente. A 2,5, non la fare arrivare a 3, abbassala appena appena. Il Mickey Gain è quello nero o quello argentato? Quello cromato? Il Mickey Gain è... aspetta che sono... aspetta, te lo dico, che non me lo ricordo, c'ho la radio davanti. Sì, il mio più ru, guarda, ti ho mandato una foto. Voilà. Vabbè, che ancora l'hai venduto. Due, mi scatola, tutto. C'è ancora lo scontrio. Il Mickey Gain è quello nero. È quello nero. Mettilo in mezzo, a 2,5, non lo devi toccare, se no fischia. Che Massimiliano? Adesso è a 2,5. E non stai fischiando, non lo toccare Riccardì, se tu lo tocchi innesca, te l'ha detto Fabrizio. Quel microfono te ne sta facendo un altro, perché quel microfono non va bene. No, ma deve essere che ha toccato Babbo, perché io non l'ho toccato perché sapevo che poi non volevo che innescasse, quindi forse Babbo come lo stava pulendo o anche come lo stava coprendo, se lo stava guardando, forse ha girato per sbaglio. Questa è scandalo sempre. Sta innescando ancora, devi abbassarlo un altro pelino Riccardì, un altro pelino. Abbassato. Ecco, lascialo stare così e non lo toccare, dille a Sergio di non toccarlo perché sennò esci male. Massimiliano, cosa mi stavi dicendo, scusa Ti stavo dicendo, saluto a Riccardo, là. Se Luca mi ascolta adesso, Luca Ria. Sì, ti ascolto, ma non è altro io prima. Massimiliano. Gaba, gaba, sto usando una cosettina come quella tipo di Natalino, là. Però questa qui forse è più carina. Va bene, un po' bassa la radio, comunque la ti ascolto, dai. Bene, segnale va bene? Segnale sei su più del più 30. Perché le ho attaccato a... capito? Sì, comunque, ma ti sentivo anche prima, però la radio era un po' così, là. Abituato a sentirti, cazzo, con le radio forti, poi. Io voglio provare un altro microfono su questa radio, aspetta, se va bene. Io mira, Massimiliano. Ollu, ti mando un messaggio, ascoltalo attentamente, perché ho fatto un esperimento con la direttiva. Ascolta bene il messaggio, ok, e poi lo giri a Gianni, lo stesso messaggio che ti mando io per non stare a... lo giri a Gianni, Gianni tu ascoltalo attentamente, lo stesso. E poi mi date una risposta, una cosa che rimanga tra di noi, perché ho fatto un esperimento proprio qualche minuto fa. Magala, ho già capito io. Vabbè, non capire già, non dire niente, tu ascolta quello che io ti mando a Luca, Luca lo manda a te, e non dire ma, qua non dire ma, rispondimi su WhatsApp, capito? Perché è una cosa molto importante. perché nessuno è stupido, cerca di capire. Claudio. Dimmi, Ricca. Ma ti volevo chiedere, lo devo togliere? Perché mi sono accorto, guardando bene, che ho un megahertz step innestato. Sì, toglielo lo step, che quello serve per far funzionare il VFO più velocemente. Toglielo in fuori lo step. Ok, l'ho tolto. Ok, i decimali tutti a zero ce l'hai di quella radio, 00 finale. I decimali, quali decimali? Aspetta, scusa, che non so più. Allora, i decimali sono, la frequenza è 27.075.00, quelli sono i decimali, ok, del frequenzimetro. Ti sta segnando 00 finale? Positivo. Perfetto, vabbè, lasciala così, lo step non lo tenere inserito. Un attimino di bianco per me che devo fare un audio, ok? Prima lo faccio a te Luca e tu lo giri automaticamente a Gianni, ok? Pagolo. E allora Torino, com'è questa radio? Come la senti? Cambio! Con le orecchie, ciao Gianni! Ciao! Ben sentito anche a te, dai! Cava cava! Un casino l'ho visto. Vabbè, cos'è il deficiente in azione stasera, eh? Sempre. No, comunque, boh, vabbè, staremo a vedere, dai. Prima o poi lo scopriremo, quest'animale. Vagava. Ma Tonino Kawasaki, non mi senti? Tonino! Ma passo. Ah, boh. Lucrezia, va. Anche Eugenio. E lui non c'è più. Boh. Ma cosa vuoi fare? Purtroppo il deficiente c'è sempre ci sarà. Ehi, vabbè, ma lì la ciappa lì. Magari forse qualcuno che entra qua. Che lo sa? Boh. Penso. Tutto è possibile, tutto è possibile. Mica quello è un antennino, mica quello è un antennino. Poi quando guarda scoperto ci rimarrà male, e cosa ci vuoi fare? Cosa vuoi fare? Nulla che può fare, non lo so. Vabbè, là. A noi non ci fa niente. Lo so, sì, già ti ascolto bene, sì, già. Solo che stavate parlando in due, stavate parlando. Ma già ti ascolto bene, già. Ma segnale com'è? Per rendermi conto, dai, adesso sono un watt e mezzo di uscita, là. Il watt che c'è nell'apparecchio? Ha dei picchi positivi straordinari, perché da 9,8 arriva a 9,15. Va bene, là. Ora, cavagala. E li supera anche, il 9,15 lo supera anche. Da 9,8 arriva a 9,15 coi picchi e anche di più. Bello. Mi sa che non me lo vende. Lo vende, perché tu lo vende? E tu lo vende, ma vai, tienitelo. Cava di cava, mi volevo prendere quello che ci ha preso Luca, il Superstar 3009, però non quello digitale, l'altro. L'ho ripreso, eh? Avanti Massimiliano, avanti. No, stavo sganciando tutto. Ciao Giulio, buonasera e ben entrato. Hai visto quella radiolina, Cessica? Non è bella, è nuova. Quella è a norma, ne ha pure un'altra mia, ancora più minore di chissà. Sempre a norma c'è. Aspetta che mi ascolto un audio. Ascoltalo bene Massimiliano, che rimanga tra di noi. Ascoltalo molto attentamente. Che avevi ragione, non sbagli. Te l'ho detto io. Ascolta attentamente questo messaggio. Che rimanga tra noi Gianni, mi raccomando che non ti sente in radio dire una parola. Ascoltalo e poi rifletti. E intanto io saluto Massimiliano, visto che adesso c'è bianco in questo momento. Va bene, dai, voglia. E così è qua. Purtroppo la madre dei deficienti è sempre incinta, tutti i giorni ne sforna uno. Te lo giro anche a te, così lo ascolti attentamente, perché nessuno è stupido. A me volta poi di 42 anni di radio fammi bigliare a fare un guru. Ci stavo pensando, eh. Era giurito, io ti bisseggeggio. Mi sono già bisseggato. Ci ho messo un po', perché dovevo mettermi un altro commutatore per poter spostare la direttiva dove volevo io, ma già sta giù bisseggato. Ma sono così sicuro, ma sì che sono così sicuro. Ok, già, ok, ma Claudio, ma cosa vuoi che ti dica? No, ma la ciagga, una volta si dice così a Sassari, ma quando è che ciaghi? No, ma la ciagga, puoi. Uia, non è possibile, mica bisogna essere proprio imbecille e deficienti, ma comunque cosa vuoi fare? Mai si vega e mai si annuttia. Ui, dove sta? Eia, scusa Giulio, Sì, ma te l'ho detto l'altro giorno, prima sta un po' così e poi entra, capito? No, te l'ho detto, secondo me, te l'ho detto di lui, secondo me. Non sbaglia, se hai letto bene il messaggio ti ho spiegato specificatamente che cosa ho fatto, e da lì non si sfugge, non c'è niente da fare, da lì non si sfugge, assolutamente, ma sai che non torniamo bizzeggato noi così, noi radiamo attori, mi, a Torino, non so se vi ricordate, nella provincia di Torino, che c'era quello che metteva musica, che metteva, adesso mi ricordo la canzone particolare, Cirinella, quello lì, in 40 metri, quello l'hanno pizzicato i radioamatori, hai capito? Gli hanno ritirato la licenza, la patente, sequestrato tutte le radio, messi 6.000 euro di multa, e gli hanno dato la condizionale perché è incensurato da 3-6 mesi di galera, hai capito? E l'hanno pizzicato i radioamatori con le direttive, piano piano, con molta calma. Ma io te lo sto dicendo perché, lo sai anche io sul tetto cosa ho messo, no? Quindi, truso con le zende. Quindi ho confrontato prima con un'antenna e mi ho segnato il segnale, poi con l'altra antenna mi ho segnato il segnale. Truso con le zende. E gli hai detto. Ecco perché rompe le palle a Gianni, ma mi pare strano a me. Facendo i calcoli a Budibudi non c'è nessuno, a parte Tino che è all'interno, Antonio quando va in campagna. Ok, poi gli altri sono Benito che non abita più lì, nella zona appunto di Sorso, Gavino che è un signore, quindi di cosa stiamo parlando? Alla Teroce li conosciamo tutti e poi arriverebbero molto più forte e quindi matematicamente ho fatto un gioco di carruzza, va bene, complimenti comunque, veramente. Ma poi mi sono sbagliato dall'inizio invece. No, però Lu, sai, io avendo le possibilità, mi stavo anche un po' girando di balle perché ho detto ma cazzo, ma io devo staccare, fare, pochi imbecille. Poi pensandoci ho detto ma perché no? E mi è bastato un attimo, proprio un attimo di buona volontà, cazzo. Allucinante, cazzo, allucinante. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, cazzo. Vabbè, che ci vuoi fare, là, comunque. Dai, avanti, scusa, Giulio, se ho ripreso io un attimino, Vai, riprendi tu e fai girare. Ok, Mastroia, figurati. Non è un problema, girami il messaggio, Claudio, girami il messaggio, dai, e vediamo se è la mia stessa idea. Comunque, Giulio, ti saluto, che non ti avevo salutato prima. Te l'ho girato, Giulio, ma mi raccomando, sia una persona grande, che rimanga tra di noi, perché non è ancora finita qua, che rimanga tra di noi, e boh, tenetevelo per voi quello che vi ho mandato, e poi ne vediamo delle belle. Ok, ciao Riccardino, sì, io ti saluto. Vediamo un po', adesso ascolto il messaggio. Ciao Riccardo. Ciao Riccardini, Massimiliano da questa. Ciao, ma non sono entrato adesso, vabbè, comunque. Vabbè, io ti ho salutato anche prima, ma tu non mi hai risposto. stavate regolando la radio, dai, non abbiamo avuto modo di salutarci, dai, non c'è problema. Ok, ciao a tutti comunque, perché sono mezzo addormentato, mi sono svegliato a poco. È innescando però, cosa hai toccato? Niente, ho toccato niente, non ho mosso un dito. C'è un innesco, devo abbassare appena, un briciolino ancora. Adesso l'ho abbassato. No, è inutile che vai, una Ferrari, cazzo, quando la devi idratare con un motore di 500, buh. No, già, non glielo fate toccare perché se no fa casino. È un problema di microfono, chiama Fabrizio e diglielo che ti stai innescando anche, Riccardi, con le regolazioni che ho fatto io, ok? Così lui viene e te lo sistema, non toccare niente perché sennò alla fine non esci più, stai già abbassando troppo di radio, è un microfono che va sostituito, già si arrangia Fabrizio, non toccare niente, se stai innescando lasciatelo innescare leggero, tanto non dà fastidio, però non glielo fate abbassare perché altrimenti è un casino, ok Ricca, non toccare niente, lasciala così e dillo a Fabrizio che ti sta innescando il microfono, anche con le regolazioni che abbiamo fatto noi, capito? Prova a allontanarlo un po' il microfono dalla radio invece. Così l'ho allontanato. Ecco, così va bene. Dove ce l'avevi? Sopra la radio? No, a fianco alla radio. È un po' più lontano, come ti ha detto Massimiliano, tienilo. Non lo avvicinare molto. Però se hai problemi, come ti ha detto Fabrizio l'altro giorno, da lì, lo chiami e glielo dici che ti stai innescando con le regolazioni che abbiamo fatto noi. E si arrangia lui, perché diversamente alla fine poi abbassa non esci. No, ma non sto toccando niente, infatti già glielo dico a Fabrizio di questa cosa del microfono. Aspetta un attimo Claudia, ma adesso il Mickey Game a quanto ce l'hai? Guarda bene. 2. Aumentalo un pelino visto che hai spostato un po' il microfono dalla radio. Ok, adesso l'ho aumentato. Aumentalo un altro pelino. 4. Prova a parlare un po' più a lungo. 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova radio, vediamo con questo microfono. No, devi abbassare un pelino perché sei nel limite dell'innesco. Devi abbassarlo un altro pelino e avvicinati un po' la bocca. Ok, adesso ho abbassato un pochino, 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova radio, l'ho abbassato proprio di poco. Dai, lascialo così e magari cerca di parlarci un po' più vicino, là. Ok, però fai come ti ha detto Claudio, chiama Fabrizio e diglielo di questo fatto qua, ok? Va bene, riprendi Luca Rie. Non deve superare i 2,5 con la radio, altrimenti innesca, c'è un problema al microfono, vai. Vabbè, così mi ha detto Fabrizio di avvisarlo nel caso, comunque avvisalo tu o Riccardo. E volete un po' di sistemarlo, va? Proprio vero, cioè c'hai una Mercedes, una Ferrari e un motore a 500. Con la radio devi uscire così come sto uscendo io, capito Riccardo? Come sto uscendo io devi uscire tu. Perché io sto usando il 430 adesso, non il 440. Devi uscire così. Io ho il Mickey Game a 2,5. A 2,5 processore inserito MC60. In posizione in amplificazione. Il tuo è chiuso perché se lo apri, guai. Non si capisce niente, ok? Sì, ho capito, io glielo dico come ha detto a Fabrizio, questa cosa è il microfono e vedo se me ne dà un altro. Sta preparando. So che ti sta preparando un altro microfono, quindi senti a lui e vedi un po' con lui, ok? Beh, chiudiamo questo discorso che non sono problemi nostri, veditela tu con lui, ok? Giulio, riprendi. Io mi ascolti. Ho detto Giulio riprende un attimino. Giulio? Sì, stavo ascoltando. Sì. Cosa vuoi che ti dico? Staremo a vedere, prima o poi già lo sgamiamo. Non ci sono dubbi. Comunque, va bene, ciao. Oh, yeah. Se è così, certo che è proprio da scelerate proprio. Comunque, va bene. Riccardino, avanti, fammi sentire questa nuova radio. Vai Giulio che ti sento forte. Sì, comunque ha un problema nell'amplificazione, considera che questo microfono non è neanche amplificato. Vabbè, già va bene, comunque non è un problema. Anche se non è amplificato, non è detto che deve essere per forza amplificato il microfono per sentirsi bene. Mi sento ugualmente bene, per cui va bene così, il segnale è fortissimo, pertanto non c'è problema, ti ascoltano tutti di sicuro. Va bene, dai, facciamo girare, io poc'anzi ho perso, diciamo così, il giro, io adesso rilancio per Massimiliano, vai Massimiliano. Mi ascolti? Avanti, tu sei da lì. Sono la Alice, non mi controllo, come sto uscendo? Sto portando una parete uguale a quella della Ramiglio. E che è questo tutto, questo paperino? Chi è? Antonello o Natalino? Ma mi sembra Antonello. Sì, già sono Antonello, ho detto, dammi il controllo, è il tipo dell'apparecchio purtroppo che mi fa la voce paperina. Guarda un po'. Sta uscendo male Antonello, è anche basso di segnale. 8 e mezzo di segnale e butta la radio, è tutta lì. Se non c'è batteria, prendi la batteria della macchina, non ce l'hai, ci metti quella, perché così almeno c'è in abbondanza e vedrai che esci bene. Vabbè, dai, vai Gianni. Ciao Antonello, buonasera, dai. Pensavo che avessi messo qualche effetto microfonico. No, è l'apparecchio omologato, quello della Delta Pro, quello che c'è a Natalino uguale, capito? E ci ho messo DM1000 e stiamo provando quello, siccome come quello, cioè, pensa il microfono qua come pensando che non serve a nulla. Volevo sapere se stiamo facendo bene o male. Tanto so che quello che è il barattino è usato. Ma ti fa l'effetto robot, capito? Un effetto robot ti fa. È metallica la radio. Scappa. C'è anche le scatole. Senta. Uno, due. Aspetta, ecco, così l'ecco è al minimo. Guarda se c'è qualche effetto metallico. Prova a fare un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta adesso. Ok, ti ringrazio, dai. Adesso uso, è solo che fischia, ho capito perché, forse è troppo forte il tipo di microfono. Va bene, ti ringrazio. A dopo, ciao. Il microfono li stai montando? DM1000 li ha montato. Capo. Però si sente sottofondo, adesso poco fa era perfetto, adesso si sente pu, come si sta innescando, non accende a innescare. Una specie di vietto fa, dai. Già lo sento, già. Ma adesso non lo fa, adesso non lo fa per niente, adesso è a posto. Vabbè, forse è troppo alta l'amplificazione. Non devo mettere di senti sotto il barattino, vedete che è sotto. Adesso non lo fa. Va bene, raga. Va bene, tutto il tuo. Sì, senza radio, chi è che ti ha detto che va bene? Ora, 2, 3, 4, 5. Va. Detto Claudio, si sentiva bene, adesso l'avrei toccato. Io la radio non accetto, vabbè. Ma non ce l'hai il cassone della Mondetta vicino a casa tua?